Si diventa milionari scrivendo un libro LGBTQ? Qual è il ruolo delle librerie LGBTQ in Italia? Ci sono più scrittori o lettori in Italia? Oggi parleremo dello stato dell'editoria lesbica, gay, bisessuale, transessuale, queer con Mauro Muscio, compagno Frocia, coproprietario della libreria Antigone di Roma e Milano e cofondatore di Asterisco Edizioni. Ciao Mauro e grazie per essere con noi oggi. Ciao, grazie a voi per l'invito. Questa che state ascoltando è Pugno, la trasmissione di Radio Quar, che tra un colpo al cuore e uno alla testa prova a spingersi in profondità nel mondo LGBTQ. Io sono Siba e state ascoltando Pugno su radioquar.com o in podcast sulle principali piattaforme di streaming. Iniziamo subito con una domanda: che cos'è l'editoria LGBTQ? L'editoria LGBTQ è l'editoria che rappresenta la vita, le vite, il presente, il passato, il futuro di tutti gli aspetti della comunità LGBTQ e tendenzialmente anche gli aspetti della vita degli autori e delle autrici LGBTQ, i motivi per cui autori e autrici hanno scritto libri a tematica LGBT e queer. L'editoria LGBT queer è un'editoria che non dà per scontato che l'intreccio narrativo è un intreccio eterosessuale, che non dà per scontato che il genere attribuito alla nascita di una persona o di un protagonista o coprotagonista è il genere che questa persona vuole avere per sé o con cui si identifica. È un'editoria che tendenzialmente mette in discussione il canone anche letterario, perché un canone in quanto tale vuol dire, significa che è un canone normato, e se la norma all'interno del quale questo canone si sviluppa è una norma eterosessuale, allora forse il canone stesso ha dimenticato dei pezzi, e quindi prova a rivedere anche che cosa è stato fatto in passato, chi ha scelto cosa dobbiamo leggere noi oggi e cosa non dobbiamo leggere, ed è tendenzialmente un'editoria che passo dopo passo, e in alcuni casi anche con dei passi molto grossi, molto pesanti, mette in discussione le norme sessuali e di genere che ci hanno insegnato da piccole, che ci hanno insegnato attraverso i libri soprattutto. Allora va lì, li mette in discussione e propone altro, e in alcuni casi, secondo me quelli significativi, crea anche momenti di sconforto, momenti di paura, momenti di messa in discussione reale al lettore, alla lettrice, attraverso la scrittura, ma l'editoria raccoglie anche la fotografia, quindi anche attraverso l'immaginario fotografico, attraverso i fumetti, la rappresentazione del disegno artistico, insomma, o anche attraverso libri per bambini e bambine, che quindi libri educativi che devono insegnare o provano a insegnare alcuni sistemi di relazione con altri bambini e bambine, allora anche lì l'editoria LGBTQ mette in discussione un certo canone di educazione, un certo canone di infanzia, un certo canone di lettura, e trova a proporre altro. Quindi la maggior parte dei libri proposti in Italia a tema gay, lesbico, bisessuale, trans e queer sono traduzioni di autori e autrici straniere? Ma guarda, dipende. Allora, il dato è che è un po' difficile rispondere in maniera secca con un sì o con un no, perché bisogna prima capire che cosa intendiamo per una scrittura LGBT o queer, o un libro LGBT o queer. Se intendiamo un testo incentrato proprio sul focus, che sia un testo di narrativa, saggistica, una graphic novel, un fumetto, su uno dei temi LGBTQ, è un conto. Però poi c'è tutta una produzione di narrativa, soprattutto ma non solo, che magari non è incentrata su quel focus particolare, ma che presenta o rappresenta un coprotagonista, un personaggio minore, una situazione legata al mondo LGBT, che quindi rientra dal nostro punto di vista nei nostri cataloghi della libreria, però poi è un po' più difficile definirlo come un libro LGBTQ. Dipende da cosa il libro contiene sostanzialmente. In questo senso allora, per esempio, la traduzione di testi da altri paesi tendenzialmente occidentali, in particolar modo gli Stati Uniti, ha visto negli ultimi anni un incremento di importazione di titoli, quindi di traduzione. Sempre in questi ultimi anni la tendenza delle case editrici italiane è stata quella però non solo di tradurre questi testi, ma di iniziare a dare più spazio anche all'interno delle proprie pubblicazioni in Italia a scrittori e scrittrici più o meno emergenti o libri più o meno inerenti alle tematiche LGBT. Per questo è un po' complesso riuscire a rispondere seccamente con un sì o con un no, secondo me. Se devo dare una risposta che un po' racchiude il tutto, ti direi che la maggior parte dei titoli non sono titoli dall'estero. C'è una buona fetta di titoli dall'estero, se intendiamo titoli dall'estero, tutti quei titoli che non solo vengono tradotti, ma che fanno poi parlare, fanno parlare, fanno discutere, muovono la critica, riescono in qualche modo poi ad avere una rappresentazione con altri, in altri settori dell'arte, che ne so, film, serie TV, eccetera, eccetera. Sotto questo punto di vista allora sono più quelli dall'estero. C'è una fetta però importante e in crescita di titoli invece italiani. E questo secondo me è un dato interessante. Un dato interessante anche perché le librerie puramente LGBTQ in Italia non sono tantissime. Qual è la situazione attuale e come si distribuiscono? Sì, non siamo in tante, è vero, siamo un po' cresciute. Milano è stata una delle città che per prima in Europa aveva avuto fin dagli anni 60 una libreria gay, ai tempi era proprio libreria gay con questa definizione che era la Babele, che è stata appunto, ripeto, una delle prime in Europa. Seguivano poi alcune altre città importanti, Amsterdam, Madrid, Parigi. C'è stato poi un momento recente però che ha visto un incremento delle librerie in Italia specializzate nell'editoria LGBT e queer, però sempre poche. Siamo poche, siamo noi a Milano, c'è Nora a Torino, c'è Igor a Bologna, che a modo suo è una libreria storica perché mantiene da parecchi anni la presenza sul territorio, la visibilità della produzione editoriale LGBT queer. A queste poi si sono affiancate negli anni una serie di librerie tendenzialmente indipendenti, che però hanno fatto proprio anche la tematica LGBT e queer, laddove nel loro essere librerie indipendenti avevano uno spirito fortemente critico nei confronti della società, e quindi tutti quei testi, non solo di narrativa ma anche di saggistica, di fumetti o altro, che in qualche modo smuovevano una critica, no? Una critica alle norme sociali, hanno trovato un ampio spazio. Quindi in questo senso ci sono una serie di librerie indipendenti che per loro stessa definizione non sono librerie LGBT, ma che poi al loro interno invece hanno un ottimo catalogo LGBT queer. E questa è stata anche una risposta a una tendenza di una decina di anni fa, una tendenza di grosse librerie di catena che avevano iniziato ad avere lo scaffale LGBT, la sezione LGBT, che però conteneva qualsiasi tetto a tematica LGBT, indipendentemente dal punto di vista con cui veniva trattato l'argomento. Quindi avevi da Tondelli o i grandi classici all'enciclica del Papa sulla sodomia, perché la tematica LGBT. Allora, in risposta un po' a questo, a quel tipo di selezione, a quel tipo di libreria, a quel tipo anche di proposta editoriale, le librerie indipendenti hanno fatto proprio una responsabilità, un'ottima responsabilità, cioè quella di divulgare un certo tipo di letteratura LGBT queer. Noi nel nostro piccolo Milano prima, da quest'anno a Roma invece, abbiamo un catalogo che è solo e soltanto LGBT queer e femminista e transfemminista, che quindi entra molto nello specifico non solo delle sigle, delle nostre storie, della storia dei nostri movimenti, ma di tutto quello che intorno al mondo LGBT queer e femminista ha a che fare sostanzialmente. Oltre alla vendita del libro, dell'oggetto fisico libro, secondo te qual è il ruolo che le librerie LGBTQ e le librerie indipendenti che decidono di avere uno spazio, di dare spazio a certi titoli hanno? Ma penso sia proprio quello di mixare al nostro interno la parte umana della libreria, o meglio dei librai e delle libraie, che sono prima di tutto persone, lettori, lettrici, in altri casi sono anche scrittori e scrittrici, ma che comunque vivono il libro come una qualsiasi persona, come qualsiasi lettore e lettrice lo vive, e quindi propongono un lato più, quel lato là che nelle librerie di catena per loro definizione non si può trovare, cioè la relazione, l'incontro, i 5 minuti o i 55 minuti di chiacchiera e di dibattito o di confronto con i lettori e le lettrici, e al tempo stesso anche la scelta. Perché è vero che il mondo online, i cataloghi online, i siti online propongono tutto, perché hanno tutto online, ma quello che manca è la scelta di quel tutto, è una selezione, quello che manca, che invece noi proponiamo, sono degli strumenti per avvicinarsi a certi libri o a certi autori, autrici, a certe tematiche, sono dei percorsi di lettura. Spesso succede in libreria che qualche lettore o lettrice mi chiede un libro, tra virgolette, facile, o un libro base sulle teorie queer, oppure qualcun altro chiede invece un libro un pochino più specifico sul fantasy femminista, o un libro che riesca a tenere dentro la questione dei rapporti sessuali nelle relazioni non monogame. È lo strumento che offriamo, è un percorso, è un punto di vista anche, perché poi i nostri sono punti di vista che non riguardano solo i libri, riguardano anche punti di vista sulla società, e proviamo a offrire questo. Molte librerie indipendenti, molte librerie come Antigone, hanno anche una funzione di presentazione continua, di rapporto col territorio molto forte. Voi organizzate presentazioni di libri, organizzate eventi, e moltissime altre librerie indipendenti che si occupano di tematiche LGBTQ hanno deciso di seguire questa strada negli anni. Che funzione ha la libreria sul territorio e perché avete deciso di fare questo tipo di iniziative? Sul territorio la funzione principale è quello di marcare il territorio, cioè di rendere visibile nello spazio pubblico la presenza culturale, la presenza delle relazioni, la presenza dell'oggetto fisico libro anche, perché l'oggetto fisico del libro non è un oggetto che nello spazio pubblico ha trovato e trova sempre spazio, anzi, stare nel territorio vuol dire confrontarsi con chi il territorio lo vive per alcune ore, se non lavora, magari viene solo qua perché rientra dal lavoro e quindi vive il weekend o magari solo la sera, o vuol dire anche confrontarsi con altri negozianti, altre attività che vivono il territorio e il quartiere come noi. Vuol dire anche in questo caso, secondo me, proporre momenti di incontro con chi attraversa lo spazio e proposte, nella migliore dei casi, proposte di riflessioni su alcuni temi che spesso diamo per scontato possano non essere interessanti per loro, ma che poi nella realtà dei fatti lo sono. Noi facciamo da sempre presentazioni di libri, eventi culturali, dibattiti, sapendo che la maggior parte del nostro pubblico non vive questo quartiere per una serie di motivi, ma negli anni abbiamo visto che il quartiere risponde. Qualcuno del quartiere partecipa ai dibattiti, qualcuna diffonde attraverso le proprie reti le iniziative che facciamo. Quest'anno abbiamo fatto degli eventi in strada, proprio qua fuori, sul marciapiede, e abbiamo visto che qualcuno è sceso per partecipare, per ascoltare semplicemente, in alcuni casi ha avuto anche un momento di intervento pubblico proprio. E questo è molto interessante, molto bello secondo noi, ed è la cosa che più caratterizza poi l'essere indipendente, perché poi intorno a quel indipendenti, libreria indipendente, insomma, se sul termine libreria è più facile, invece sul tema indipendenti è un po' meno, c'è meno riflessione, no? E secondo me una parte dell'essere indipendenti è questo, cioè è uno spazio fisico che effettivamente ha evidentemente un risvolto commerciale, che però parla allo spazio pubblico cerca anche di occupare in parte lo spazio pubblico o comunque propone cultura nello spazio pubblico. Questo proporre cultura nello spazio pubblico non è sempre visto benissimo. Mi vengono in mente episodi di vandalismo che hanno toccato anche la vostra libreria, ma anche tante altre librerie indipendenti in giro per l'Italia. Quanto questo è frequente e che cosa racconta? Ma questo per noi, per fortuna, non è stato così frequente, nel senso che in questi 6 anni e mezzo abbiamo avuto alcuni momenti, ma davvero si contano sulle dita di una mano, in cui ci hanno imbrattato la sala Cinesco, il negozio. Parliamo però di queste, diciamo, di situazioni molto molto facili, nel senso risolvibili. Però la cosa interessante per noi non è tanto l'atto in sé, che poi vabbè viene ripulito e a posto, è quello che quell'atto racconta. E quello che racconta è che effettivamente ancora esistono quelle dinamiche di quelle dinamiche fasciste, e uso questo termine non perché sono sempre collegate ad ambienti politici fascisti o neofascisti, ma perché la matrice culturale è la matrice, è il punto di vista, è il come ci si pone nei confronti degli altri e delle altre, radicalmente fascista, secondo me, ancora esistono. È una modalità, è una cultura, è un modo di vivere che ancora esiste e che mette dei segni ancora comunque in giro, cioè quello del non mi confronto, non entro in conflitto, ma aspetto che chiudiete, che chiudete il negozio, veniamo di notte in 3 o 4, vi imbrattiamo, vi facciamo la scritta per farvi sapere che non è che tutti vi vogliono bene, ma che ancora c'è chi resiste alla vostra ideologia, al vostro lavoro e vi contrasta, e quelli siamo noi. E questo è quello che raccontano spesso questi atti, in altri casi raccontano ben altro, poi dipende dalle situazioni ovviamente. Quello che però poi questi racconti non prevedono è la reazione, perché abbiamo avuto, come dicevo, questi casi di vandalismo sulla sala Cinesca, e per noi hanno sempre poi portato una solidarietà molto grossa dal quartiere, da chi ci segue online, dai lettori e lettrici che non vivono il quartiere ma vivono la città o altre città ma che ci seguono, e la solidarietà è sempre molto, molto ampia. Prima accennavi alla dimensione fisica del libro, dicevi che il libro non ha una visibilità nello spazio pubblico, o comunque è molto difficile vedere l'oggetto libro. È anche vero che negli ultimi anni la presenza di oggetti come gli ebook, i libri elettronici, si è diffusa molto di più rispetto a quello che poteva essere il passato. Che ruolo hanno avuto gli ebook per voi, e che ruolo hanno avuto per la diffusione dell'editoria LGBTQ? Guarda, questo è molto interessante, soprattutto perché è un tema in realtà ancora aperto. Nel senso che l'ebook non è una novità dell'ultimo anno, quello ok. Però l'incidenza che ha avuto sul cartaceo, per quello che ho potuto studiare e vedere negli anni, ancora non ha un quadro definitivo. Non ci sono percentuali definitive, una relazione definitiva tra che cosa produce l'ebook in relazione al cartaceo o meno. Quello che possiamo, almeno quello che posso dire io, per quello che un po' ho letto, studiato, ma soprattutto ho visto in libreria, è che l'ebook può essere molto utile laddove viene visto a 360 gradi, visto, quindi visto da chi lo compra per leggere, da chi lo produce, da chi invece come noi non lo vende, quindi non c'ha a che fare direttamente. Se viene visto come qualcosa che si può relazionare al cartaceo, non come qualcosa che è in concorrenza al cartaceo, cioè come uno strumento che può dialogare con il cartaceo e che a sua volta può dare qualcosa anche all'editoria cartacea. Questo vale per l'ebook, secondo me, ma vale anche per altri media in generale. Per quanto riguarda la questione LGBT nell'editoria, noi, come dicevo, noi non abbiamo mai venduto ebook. Quello che però abbiamo visto spesso è che una buona percentuale dei nostri lettori e lettrici comprano anche ebook, leggono anche ebook, ma evidentemente non è qualcosa di negativo, perché rimangono nostri lettori e lettrici, nel senso che comunque rimangono persone che poi in libreria vanno, comprano e leggono. fanno una scelta probabilmente, cosa si può leggere sull'ebook, cosa può essere utile leggere in ebook e cosa invece può essere utile leggere col cartaceo. Banalmente in questo periodo molte persone vengono da noi, comprano dei libri per le vacanze e alcuni di loro scelgono cosa portarsi a livello del libro cartaceo e invece cosa poter leggere in ebook per questioni di peso, di spazio, di comodità, di praticità. In questo senso allora secondo me può esserci un dialogo. Tra le altre, quello che ho visto è che spesso chi legge un libro in ebook poi lo compra la versione cartacea. In parte, solo in parte, vedo l'ebook come dovremmo vedere le biblioteche anche, cioè come strumenti che dialogano con le librerie, che hanno a che fare con le librerie. Cioè chi va in libreria, chi va in biblioteca, sceglie un libro, lo legge e spesso poi se gli piace lo compra, perché è una scelta anche in relazione alle proprie condizioni materiali, economiche magari, e la stessa cosa avviene con l'ebook. Chiudo dicendo che quando uscì l'ebook, uscì l'ebook a livello commerciale, non a livello di nicchia, la preoccupazione ci fu, soprattutto per alcune case editrici e alcuni colossi anche dell'editoria, perché si temeva che avrebbe completamente cancellato il libro cartaceo. Ripeto, non abbiamo le stime definitive, perché è molto complesso poi lo studio di tutto ciò, però quello che possiamo dire a distanza di 20 anni, 15, è che questo non è avvenuto, evidentemente. Quello che ho notato nella mia piccola esperienza personale è che spesso le persone che hanno tendenza a utilizzare gli ebook, a leggere su ebook, hanno un accesso facilitato ai testi, per esempio, in lingua originale, che sono non semplicissimi certo. Da recuperare in Italia. È una nicchia piccola, è un gruppo di lettori sicuramente ridotto rispetto a quelli che normalmente utilizzano le librerie come canale di acquisto di libri, però mi veniva in mente questa cosa perché internet, sia attraverso gli ebook, ma più in generale attraverso anche il ruolo di personaggi e persone come i booktuber o tutti i siti specializzati legati al mondo del libro e al mondo del libro LGBTQ, hanno cambiato in qualche modo il livello di conoscenza del lettore medio e il livello di conoscenza della persona che arriva all'interno di una libreria. Questa cosa l'avete vista e le persone che arrivano in libreria sanno già che cosa stanno cercando oppure la situazione è diversa? No, sì, l'abbiamo vista, sì. Negli ultimi anni soprattutto si è vista. Diciamo, tutto il mondo social, soprattutto, ma non solo, perché dalla pandemia, dall'inizio della prima pandemia di Covid in poi, ha determinato un cambiamento in questo. Sostanzialmente qui stiamo parlando di persone che utilizzano i social o comunque strumenti mediatici per promuovere o un'autore, un'autrice o un libro, cosa che anche la televisione mainstream faceva, fa ancora in alcuni canali, in alcune trasmissioni, cioè utilizzare un altro mezzo mediatico per sponsorizzare un libro. Un riscontro c'è effettivo a livello commerciale? Sì, effettivamente sì, questo è evidente. Negli ultimi anni in particolare quello che ho visto è che ci sono alcuni personaggi che laddove fanno una storia, una promozione online di un testo, producono un'immediata richiesta, come d'altronde avviene quando escono alcune serie legate o tratte da fumetti o storie, immediatamente producono la richiesta in libreria. Non ho un giudizio sinceramente su questo, nel senso che è un fenomeno nuovo, è un fenomeno che, ripeto, a livello commerciale funziona, tant'è che parliamo poi di persone che, influencer per esempio, che lo fanno proprio di lavoro, cioè che c'è un profitto economico per loro dietro a questa sponsorizzazione, quindi effettivamente è qualcosa di molto grosso. Secondo me può essere molto utile, come al solito, non è il mezzo in sé che è un problema, è il come lo si usa, il chi lo usa, il perché e per come viene utilizzato. Sul livello di sensibilizzazione più mainstream, comunque più su larga scala di alcune tematiche, riescono a ottenere alcuni risultati, che direi anche positivi sotto alcuni punti di vista, perché no, quello sì. Quello su cui poco poi si riflette è sulla neutralità di questi strumenti, che secondo me invece è il vero problema, cioè il vero problema, il vero dato, cioè utilizzare un social media per fare la sponsorizzazione attraverso l'influencer per fare la sponsorizzazione di un libro può essere utile, senza dimenticare che quel social media, cioè quello strumento, non è uno strumento neutro, anche se è gratuito, anche se è facile, anche se ce l'hanno tutti, non è neutro, cioè è il prodotto di un'azienda che deve fare profitto con delle regole, con una scrittura algoritmica che decide cosa si dice e cosa non si dice, insomma con delle regole legate al profitto poi, non semplicemente a un regolamento interno fino a se stesso, ecco. Trovo interessante questo tuo passaggio, perché anche il libro di per sé è uno strumento non neutro. Ci sono dietro case editrici, ci sono dietro distributori, ci sono dietro librerie anche, in alcuni casi giganti, multinazionali che fanno soldi attraverso questo oggetto e questo prodotto. Qual è il rapporto di una libreria indipendente e qual è il rapporto anche di una piccola casa editrice nata da poco, come Asterisco, di cui sei cofondatore, con questo mondo in cui il soldo è il canale, è il fine ultimo per molti? E questa è una domandona, perché ci devi fare i conti sostanzialmente sempre e costantemente, perché la tua libertà effettivamente, non la tua libertà editoriale, culturale, non è una libertà reale, perché è caratterizzata all'interno di un circuito economico. Secondo me, partendo dalla libreria, quello che può essere utile, o meglio, quello che noi abbiamo sempre fatto, è stato riuscire a mantenere un'identità culturale forte, senza però ricadere in un estremismo fine a se stesso poco utile, e anzi talvolta in alcuni contesti un estremismo che ti fa quasi diventare un autocensore di te stesso, cioè la maggior parte dei titoli sono titoli politici, queer, sono titoli, soprattutto quelli della saggistica, ma non solo, sono titoli legati a una certa visione del mondo, il che però non significa che a questi non si possano affiancare anche alcuni titoli più commerciali, diciamo, che senza nessun tipo di vergogna, l'abbiamo sempre detto, aiutano economicamente a mantenere vivo il progetto, perché si vendono molto più facilmente, e anche questo è importante, magari possono essere strumento per intercettare persone che non conoscono o che ancora non si sono affiancate a tematiche più politiche o radicali, e attraverso quello strumento invece può essere un modo per entrarci in relazione, chiacchierare, proporre il libro che stavano cercando più commerciale, e poi proporre qualcos'altro. Insomma, ci vuole un po' di versatilità, concedimelo, per giocare all'interno e non farsi completamente risucchiare dal mercato, e al tempo stesso per non farsi completamente schiacciare dal mercato. Sul livello della casa editrice, per noi è in parte più facile, ma non completamente, perché la casa editrice per noi è soprattutto un progetto politico, è un collettivo editoriale che sceglie ogni passaggio in maniera orizzontale, che sceglie cosa pubblicare con il solo obiettivo politico della pubblicazione, quindi il contenuto è importante, l'autore, l'autrice, i linguaggi utilizzati sono essenziali. C'è il lato ovviamente delle vendite, ma per noi nel contesto nostro, che è un contesto diverso comunque dall'editoria classica, anche dalla piccola editoria classica, è differente, perché appunto, ripeto, è un collettivo politico il nostro, e quindi quello che ha come fine economico è almeno andare alla pari per non andare in perdita e riuscire a pubblicare qualcosa di nuovo successivamente. Se non sbaglio, come Asterisco avete deciso di non utilizzare come canale di distribuzione Amazon. È ancora così? Esattamente. E da che cosa deriva questo tipo di ragionamento? Sì, noi fin dall'inizio ci siamo detti che dovevamo essere un collettivo capace di adeguarsi ai cambiamenti, ma saldo su alcune questioni. Quella di Amazon è stata una delle prime che abbiamo affrontato. Non essere distribuiti da Amazon direttamente, dico direttamente perché poi qualche nostro libro su Amazon lo si trova, perché comunque il mercato è libero, e quindi se qualche libreria o privato lo vuole vendere su Amazon nessuno glielo può impedire, però noi direttamente non vendiamo su Amazon, perché ci rifiutiamo di avere a che fare minimamente e di dare anche una parte del nostro profitto a una delle aziende e delle multinazionali che più ha a che fare con la distruzione di qualsiasi condizione minima salariale giusta nei confronti dei lavoratori e delle lavoratrici, una multinazionale nemica dell'ambiente e delle politiche che invece secondo me dovrebbero essere adottate per salvaguardare un minimo il contesto ambientale, e una delle aziende che più non solo fattura ma evade le tasse, ma non per un principio di amore nei confronti dello Stato, ma qui parliamo di una quantità di milioni di tasse non pagate, tasse che sarebbero utilizzate poi per la spesa pubblica e quindi per un bene comune. Quindi a partire da questi elementi ci siamo detti: noi con voi non vogliamo niente avere a che fare, soprattutto, non l'ho detto prima, se pensiamo che Amazon non solo è un canale distributivo, ma Amazon è diventata la libreria, il supermercato libreria per eccellenza, che a sua volta pubblica autori e autrici, distribuisce, stampa e fino a qualche anno fa in Italia, adesso non lo possono più fare, proponeva la vendita dei libri con dei prezzi super mega scontati, abbattendo quindi qualsiasi tipo, non neanche di concorrenza, ma di quieto vivere invece con le librerie di catena, anche o le librerie indipendenti, soprattutto del territorio italiano. Quello delle librerie di catena che citavi adesso è un altro tema abbastanza caldo, immagino, sia per una libreria indipendente che si occupa di un tema ben specifico, sia per una casa editrice. In Italia ci sono una serie di catene di librerie con un peso politico ed economico molto forte e che hanno negli ultimi anni affrontato le tematiche LGBTQ in modo più o meno intenso e più o meno opportunistico. Quanto questo ha cambiato il modo di fare libreria e di fare casa editrice, e quanto è forte questa presenza LGBTQ all'interno delle grosse catene di librerie italiane? È sempre più in crescita, e questo è il dato di partenza, è sempre più in crescita e determina fortemente poi la vita della libreria indipendente o di antico nel nostro caso, nel senso che noi per esempio abbiamo sempre cercato di dare molto più spazio a case editrici piccole e medio piccole e di togliere spazio invece alle grandi case editrici. È chiaro però che se le grandi case editrici riescono a ottenere i contratti di traduzione di testi importanti, o riescono a pubblicare testi scritti da un influencer o un attivista o un militante, allora è chiaro che questo spazio glielo dobbiamo dare, perché quel testo non solo vende, ma ci serve soprattutto, perché per noi questo soprattutto è un archivio culturale, quindi deve avere quei titoli, e evidentemente questo spazio in parte glielo dobbiamo ridare. Su questo poi anche lì dipende quali sono le scelte che hanno fatto nella pubblicazione di certi testi, di certe linee editoriali. Dicevo prima, è in crescita questo trend, lo vediamo in tutte le grosse case editrici, in tutti i grossi soprattutto gruppi editoriali, crescono le pubblicazioni a tematica LGBT, crescono alcune collane anche nuove, crescono le pubblicazioni di autori e autrici non italiani, quindi in traduzione. È profitto? Sì, perché tutto è profitto tendenzialmente, soprattutto per questi grossi marchi editoriali. Producono cambiamenti positivi? In parte, perché no? Anche lì potrebbero, nel momento in cui hanno una grossa diffusione sul territorio a livello di distribuzione, una grossa visibilità, uffici marketing di promozioni ben strutturati che riescono non solo a far girare la copertina del libro, ma a far girare alcuni termini, alcune parole, alcuni concetti che ruotano intorno a quel libro, qualcosa producono a livello di società. Spesso, quello poi è il problema, di fronte alla pubblicazione di un testo queer per una grossa casa editrice italiana, ce ne sono altri 5, sempre per la stessa casa editrice italiana, omofobi. Sessisti o razzisti, e questo è quello che più andrebbe reso visibile, per poi influenzare in qualche modo i lettori e le lettrici nella scelta dei libri, perché quella casa editrice che può aver pubblicato il testo queer più figo degli ultimi 6 mesi è la stessa, ripeto, che ha pubblicato anche il testo di un omofobo che ci spiega come far ripigliare il figlio alla figlia che ha tendenze omosessuali. Questo è il problema. Bisognerebbe anche interrogarsi un attimo su quello che c'è dietro il lavoro di una casa editrice, quindi la negoziazione dei diritti, Certo. quindi il mercato internazionale che porta poi anche attivisti e attiviste impegnate da decenni nelle lotte antisessiste, antirazziste, contro l'omofobia, eccetera, a cedere i propri diritti a case editrici che pubblicano i peggio reazionari e i peggio omofobi. È sicuramente un discorso più grande di quello che possiamo fare oggi, però è sicuramente Però c'è un. anche questo. Abbiamo parlato quindi della situazione dell'editoria, della grande editoria in Italia che si occupa anche di testi LGBTQ. Qual è la situazione invece della piccola editoria? E la situazione della piccola editoria è da una parte positiva perché basta vedere negli ultimi 3-4 anni sono nate nuove case editrici e aumentano in realtà poi le piccole e medie case editrici. Il problema, come in ogni settore di mercato in questo sistema economico, è che le difficoltà sono enormi. Cioè, basta pensare che negli ultimi 2 anni, e soprattutto nell'ultimo periodo, c'è un rincaro non solo della carta, ma anche dell'inchiostro altissimo, legato alla pandemia, alla guerra, ai dazi doganali, insomma, a una serie di elementi che quindi proprio hanno a che fare con la materia prima della produzione del libro, prima ancora che i diritti, le royalties, eccetera, eccetera. Ripeto, c'è evidentemente un lato positivo nel vedere un incremento di queste case editrici. Un aumento di case editrici che, e questo secondo me è una parte molto interessante, che sono spesso in dialogo con movimenti, con associazioni, con realtà territoriali, con situazioni territoriali e sociali, cioè che in qualche modo ripropongono quella relazione tra produzione editoriale e società reale che si muove, che produce, che pensa e riflette quotidianamente. Secondo me questo è interessante. Ripeto, è chiaro che le difficoltà sono maggiori nei confronti delle grosse case editrici. Un esempio tra tutte, le fiere dell'editoria. L'Italia ha un buon numero di fiere dell'editoria, alcune molto note, altre meno note, però importanti lo stesso, perché rappresentano dei momenti territoriali in cui una serie di soggetti non solo espongono le proprie produzioni, ma incontrano i lettori e le lettrici, fanno incontrare gli autori e le autrici con i lettori e le lettrici, quindi creano momenti di incontri reali proprio per la produzione della cultura e non solo per la lettura fine a se stessa. E il problema di queste fiere è che sono quasi sempre autofinanziate, auto-organizzate, il che significa che devono trovare gli sponsor, il che significa che devono far pagare i biglietti, il che significa che non possono prendere gli spazi in pieno centro, ma devono allontanarsi perché così il prezzo degli affitti costa meno. È chiaro che case editrici molto grosse riescono a vivere quei momenti in un determinato modo e quindi a prendersi molta più visibilità, case editrici piccole o medio-piccole prenderanno molta meno visibilità, purtroppo. Questo è un esempio perché questi sono appuntamenti importanti durante l'anno editoriale e della promozione editoriale. A differenza però delle grandi case editrici c'è un elemento che è quello della relazione tra le piccole case editrici italiane e con le piccole case editrici estere, dove spesso la scelta di qualche testo da tradurre e editare in Italia è frutto non tanto di acquisizione di diritti, ma a volte di scambio di diritti. Cioè un titolo che una casa editrice ha pubblicato in Italia viene proposto all'estero in cambio di un altro titolo. E questo crea un incontro e una, diciamo, in qualche modo una facilitazione per entrambi i soggetti, ecco, nell'importare e esportare il libro in altri contesti e nel proprio paese. Quindi mi sembra di capire che non si diventa ricchi con l'editoria LGBTQ in Italia. No, non si diventa ricche, non Si si diventa ricche. diventa ricche da qualche parte con l'editoria LGBTQ? Non ho capito? Si diventa ricche in qualche altro paese con l'editoria LGBTQ? Ma non lo so se oggi si diventa ricchi. In passato sì, qualcuno è diventato molto ricco con l'editoria LGBTQ in altri paesi, tendenzialmente Stati Uniti, ma non solo, anche Germania. Grosse case editrici di fotografia erotica maschile tedesca, per esempio, ha fatto davvero molti soldi. Una fetta importante dei fumetti negli Stati Uniti, ossia, i paesi in cui già 30 anni fa esistevano fiere del fumetto LGBT. C'è una cosa super mega specifica all'interno della specificità di un genere, quindi oggi non lo so se si diventa ricche. Ad oggi ti devo dire per esperienza personale, no, Quando non si diventa scopriremo come ricche. diventare ricchi con i fumetti LGBTQ, ti faremo sapere, insomma. Eh sì, potrebbe essere una notizia interessante. Parlavi di fiere del fumetto LGBTQ negli Stati Uniti. Esistono fiere editoriali dedicate al mondo dell'editoria LGBTQ in Italia? No, nel senso fiere LGBTQ, no. Esistono diversi festival che promuovono, per esempio, le letterature o i fumetti LGBT e queer in Italia, quello sì. A Roma, per esempio, Tuba, tutti gli anni organizza questo festival estivo che dura 3, 4, 5 giorni, dipende, dove promuovono il fumetto, in particolar modo il fumetto femminista, lesbico, anche bisessuale in realtà, quello sì, per esempio. Diciamo, esiste, scusa, tutta una realtà più underground, cioè legata alla sottocultura, che durante l'anno organizza dei momenti, degli incontri, delle fiere di visibilità, di fanzine queer, di autoproduzioni queer, femministe, eccetera, eccetera. Sono nicchie, sono sacche di resistenza, perché lì vivono davvero completamente di autofinanziamenti interni, senza neanche sponsor, e però fanno un ottimo lavoro di visibilità, di momenti di incontro, di presentazione, dibattiti, quello sì. Però parliamo davvero, secondo me, ancora di qualcosa che è proprio all'inizio, qualcosa che non ha una visibilità che invece può avere in altri contesti occidentali oppure appunto come gli Stati Uniti. Secondo te nel 2022 qual è il ruolo dell'editoria LGBTQ? Ma secondo me l'unico ruolo positivo giusto che può avere è quello di creare cambiamento. Di inserirsi all'interno di percorsi di cambiamento, di percorsi di conflitto, di percorsi di ragionamenti ampi, progressisti, radicali, democratici, cioè inserirsi all'interno di percorsi più ampi per migliorare le condizioni materiali, non solo culturali, ma proprio condizioni materiali delle persone LGBT e queer. Quello può essere, e la cultura, la produzione editoriale in questo ha un fortissimo peso. Un fortissimo peso, è un'immagine importante che si dà, è un investimento che si fa. E secondo me, per tornare anche ai discorsi precedenti, è questa anche una grossa differenza con alcune case editrici molto grosse che pubblicano testi LGBT, che per loro con la pubblicazione finisce lì l'interesse. Invece per me, per noi e per alcune case editrici o anche altre librerie, non finisce assolutamente lì, anzi, inizia lì il percorso. Fino ad ora hai parlato principalmente di libri LGBTQ. Esistono pubblicazioni e riviste LGBTQ diffuse in Italia? Qual è la situazione delle riviste? Ma no, guarda, questo è molto interessante perché in realtà noi usciamo da un periodo in cui avevamo in qualche modo decretato la morte della rivista. In realtà poi così sembra non essere, perché anche negli ultimi anni abbiamo visto un incremento di riviste, fanzine, riviste anche testate distribuite a livello nazionale, quindi non solo produzioni underground o piccole, ma anche produzioni con tirature importanti, che si affacciano un po' sulla scena e che tendenzialmente sono caratterizzate nella maggior parte dei casi da un'identità, chiamiamola così, intersezionale. Quindi non sono solo queer o non sono solo femministe, ma sono tendenzialmente queer, femministe, antirazziste, con una forte attenzione alla questione delle disabilità fisiche e intellettive. Cioè, tengono dentro molto, oppure tutt'altra produzione, che però anche questa risorta in qualche modo dopo un momento di down, e tutto quello è legato alla fotografia, quindi riviste di fotografie, di immagini, di moda, di design, di produzioni grafiche, però caratterizzate dall'impronta queer o transfemminista o femminista, perché l'autore o l'autrice lo è, perché quello che rappresenta o viene rappresentato nella rivista lo è, o perché spesso succede che vengono fatte in alcune riviste alcuni monografici relativi a delle mostre LGBT. C'è una ripresa che non è che è molto lenta perché ci aspettiamo una grossa ripresa in termini o di vendite o di tirature, è una piccola ripresa perché il grosso ormai è stato spostato completamente nell'online e questo effettivamente è un dato, non è una cosa su cui si deve riflettere o meno, è un dato di fatto. Quindi la ripresa e la riproposizione editoriale cartacea di tutto questo che è avvenuta e sta avvenendo è già un ottimo risultato, ecco, per quello che è in termini di quantità di tirature. Credo che lo stesso fenomeno sia avvenuto anche altrove, in altri paesi. Mi viene in mente il destino di Tetul, la rivista francese, oppure più Sì. recentemente quello di Bat, che era una rivista, un periodico che è scomparso a un certo punto e si è riproposto poi come oggetto feticcio in qualche modo, andando a fare Sì. collaborazioni con case di moda, andando a riposizionarsi anche sul mercato in un modo totalmente diverso rispetto a quello che poteva fare qualche anno fa. L'oggetto libro, e l'oggetto rivista sono potenti all'interno dell'immaginario LGBTQ, sono qualcosa che ha attraversato sempre la storia perlomeno nell'ultimo secolo, la storia delle persone LGBTQ attraverso, anche magazine, non esplicitamente gay, ma che si rivolgevano a un pubblico gay o attraverso pubblicazioni che poi finivano nelle librerie o sui tavolini da caffè di alcune persone che indicavano chiaramente al pubblico che andava a visitare quella casa che la persona era gay o era lesbica o era bisessuale. Questo fenomeno sta tornando, mi dicevi, in parte sulle riviste. È una cosa che si vede anche sui libri. Il libro sta diventando uno status symbol in qualche modo, un oggetto feticcio, è un oggetto che rappresenta l'essere gay, l'essere lesbica, l'essere trans, l'essere queer. No, guarda, è una bella domanda a cui diciamo, non azzardo una risposta definitiva con me stesso intendo, ma diciamo, una risposta aperta, perché è vero che la cultura in generale, come dicevi tu, e l'editoria e il libro in particolare hanno svolto un ruolo importantissimo. Oggi svolgono ancora un ruolo, sì, è diverso rispetto al passato probabilmente, se lo intendiamo come diciamo, oggetto feticcio, probabilmente sotto questo punto di vista ancora rimane, se lo intendiamo invece come proprio strumento di ricerca della propria identità, di consolazione, di eccitazione, di tanto altro, allora forse è diverso. Quello che è interessante è che oggi aumenta la ricerca del feticcio del passato del mondo LGBT, che siano le riviste degli anni 70, i libri degli anni 50, 60, 70, c'è cioè una grossa ricerca di quello, una grossa volontà di ritrovare tutta quella produzione, ma non di ritrovarla e basta, ma proprio di averla, di avere quel feticcio, quell'oggetto in mano, di averlo a casa. Quello c'è e quello torna e non torna solo da parte di chi se ne occupa a livello accademico, di ricerca o di archivio, ma viene anche da persone che hanno anche altri interessi sostanzialmente, che se lo fanno per un interesse proprio e non finalizzato solo alla ricerca o al lavoro. Sull'oggi, secondo me, boh, è abbastanza aperta perché Il libro di per sé oggi è differente rispetto al passato, perché non è più solo libro. È libro, ma che è legato ai social, che è legato a un personaggio pubblico, o che è legato a qualcosa che è successo, o a un dibattito, e il dibattito l'hai seguito sui social, o l'hai seguito comunque internet, cioè è qualcosa di più forse, un po' più complesso, e per quello dico una domanda, è una risposta che dopo non è definitiva e rimane ancora aperta. Secondo te cosa porta le persone lesbiche, gay, trans e queer a riscoprire, a riandare a cercare produzioni editoriali del passato? In parte, secondo me, cercano di capire perché oggi è così diffusa una certa produzione, una certa visibilità, e prima non lo era, e quindi per capire perché non lo era cercano di capire com'è stato prima, qual era il livello di rappresentazione e che cosa ha dovuto abbattere, come muri, linguaggi e altro. Poi c'è un po' di curiosità su se stessi, cioè questo è un momento in cui definizioni identitarie cambiano nel giro di pochi mesi, in cui le bandiere delle varie sigle, delle varie lettere della sigla si moltiplicano continuamente, e c'è chi si chiede il perché, come era prima sostanzialmente, o perché prima non è avvenuto questo. E anche questo è molto interessante. E poi, e questo non ce lo dimentichiamo, perché è vero che oggi è diverso rispetto al passato sotto diversi punti di vista, ma c'è una costante che è il nemico reazionario, omofobo, transfobico, sessista, che continua a essere. E c'è chi, nella ricerca di quelli del passato, cerca di capire quali sono stati i linguaggi che hanno utilizzato per rispondere. E si rendono conto quasi spesso che se i linguaggi nostri sono cambiati, i linguaggi loro di attacco sono sempre stati quello, cioè il dibattito sul DDL Zan, al di là della legge in sé, ma tutta quella parte che riguardava la scuola, quindi i bambini, il gender a scuola, l'educazione dei bambini, è una cosa che attraversa la nostra storia passivamente, cioè come attacchi da parte dei razionali da sempre. Lo ritrovi nelle riviste di movimento degli anni 70 che rispondono ad alcune, lo ritrovi nelle lettere di alcuni scrittori di inizio Novecento che rispondono a dei magistrati, insomma, e riscoprire questo crea interesse, perché si prova almeno a comprendere il perché usano ancora questi linguaggi contro. Quali sono i generi più venduti e più letti nelle librerie LGBTQ? Ma allora, i generi che più vanno tendenzialmente sono due: narrativa e fumetti. Narrativa perché è un mondo enorme che al suo interno ha effettivamente la rappresentazione delle vite presente, passate e anche future, vite reali, vite non reali, cioè un genere così ampio che riesce ad accontentare diverse generazioni, diverse richieste, diverse necessità anche del momento in cui il lettore o la lettrice si butta su quel libro. Il fumetto invece ha una storia di un certo tipo anche in Italia, diversa rispetto a quella di altri contesti europei, diversa anche dalla Francia banalmente, che però riesce oggi sempre più a muovere molto interesse, sia per motivi in alcuni casi legittimi, perché è vero che un libro di molte pagine scritto fitto è un elemento che un lettore o una lettrice prende in considerazione, invece una graphic novel che alterna o mischia il disegno con il dialogo o il monologo è un'altra cosa, e questi tendenzialmente sono i due. Anche i fumetti e la graphic novel accontentano generazioni diverse tra loro, temi diversi, vite diverse, rappresentazioni diverse, il reale, il fantastico, un po' di tutto. Questi sono i più. Però la specificità che abbiamo visto in libreria da noi è stata quella che la saggistica continua a riscuotere un ottimo successo. In termini di vendita è minore, perché anche in termini di produzione però è minore rispetto alla narrativa, però qua da noi la saggistica è un tema, è un genere davvero molto ricercato. Ricercato perché come tale affronta, studia, propone letture, punti di vista su argomenti che per il tipo di libreria che è la nostra non sono astratti, ma riguardano le vite reali, le situazioni delle nostre vite, situazioni scelte o subite o altro. Quindi non è la saggistica va bene, va oggettivamente bene. Velocissimo, è stato la nostra libreria a Milano è piccolina, non è grande, e noi continuiamo a spostare gli scaffali, i mobili, a spostare i libri, perché la saggistica evolve, cambia, sezioni che prima non c'erano adesso ci sono, sezioni che prima c'erano adesso invece vengono ridotte perché c'è meno interesse su quello, perché magari quell'argomento trattato ha avuto un'evoluzione di un certo tipo, per cui o si è buttato in altri settori o proprio la ricerca in sé un po' è scemata, e quindi è molto vitale in questo, ecco, la saggistica, e quindi smuove un certo interesse. Chi compra libri LGBTQ? Allora, chi li compra? Li comprano tendenzialmente le persone LGBTQ, sì, li comprano tendenzialmente le persone LGBTQ dai 20 anni, 22 anni in su, li comprano tendenzialmente più le persone evidentemente con un buon grado culturale rispetto ad altre, però le comprano anche professionisti che lavorano, figure professioniste che lavorano in alcuni contesti in cui i temi sono presenti, la scuola, i servizi sociali, centri educativi, e quindi necessitano o vogliono approfondire alcuni temi che riguardano poi il loro aspetto lavorativo, e le comprano le persone eterosessuali che hanno a che fare con momenti di vita o vite di persone LGBTQ con cui vogliono confrontarsi, nel migliore dei casi vogliono, in altri casi devono, però noi spesso abbiamo qua genitori che per capire il significato della parola transgender che il figlio o la figlia gli ha consegnato qualche sera prima a cena, vanno su internet, sì, si rendono conto che è troppo internet, perché c'è tutto là dentro e quindi non c'è nulla poi, allora vengono, si fanno consigliare, cercano di capire, e leggono, studiano, provano ad alfabetizzarsi in qualche modo. Ecco, e questo c'è, e non è una percentuale piccola, è una percentuale interessante, interessante ovviamente minoritaria rispetto al resto delle tre elettrici, però c'è anche quella. Un pubblico decisamente vasto e eterogeneo. Poco prima della pandemia sei stato tra i cofondatori di Asterisco Edizioni. Mi viene spontaneo, visto anche il Covid, visto anche tutti gli ultimi anni che abbiamo trascorso tutti insieme appassionatamente, come vedi il futuro dell'editoria LGBTQ in Italia? Questa è una domandona, perché riguarda proprio, cioè un po' come chiedere come vedi la tua vita nel futuro, poi, perché poi è quella. Beh, intanto la vedo, e non la darei per scontato questa cosa. Cioè, un futuro ce l'ha, perché comunque ormai è un settore banalmente, così, in maniera proprio politicamente scorretta, banalmente è un settore di mercato che esiste, che produce, che fa profitto, che smuove una serie di soggetti, di aziende, di realtà e di relazioni economiche, per cui il futuro ce l'ha. Il problema è, secondo me, il rischio di che questo futuro venga monopolizzato da grandi gruppi, quindi da grandi trend anche culturali, per cui lo spazio maggioritario verrà dato o si creerà uno spazio maggioritario per un certo tipo di immaginario LGBT e anche queer. Bisognerà un po' fare una palestra di resistenza per mantenere vivo quello più radicale, antagonista, o comunque che mette un po' in discussione la realtà intorno a noi. Ci sono dei fattori, lo dicevo prima, che sono anche abbastanza imprevedibili per la loro portata, cioè l'aumento della carta, del prezzo della carta, che è un aumento che supera il 100%, è qualcosa di molto pesante, perché è la materia prima con cui il libro esce effettivamente. E questa cosa qua determina chi potrà fare o chi non potrà fare, e anche chi potrà fare determina in che quantità e cosa potrà fare, perché ha una ricaduta enorme. Al tempo stesso però c'è un legame con i movimenti LGBTQ che andrà, secondo me, affrontato nel migliore modo possibile, che è quello politico, perché se l'editoria LGBTQ rimane o solo legata alle grosse imprese o legata a piccole case editrici, ma completamente scollegate poi dalla realtà di movimento e dalle realtà delle associazioni del movimento, in un paese come il nostro che ancora di battaglie politiche e culturali ne ha da fare, se la situazione è rimarrà così, è chiaro che una delle due ha già vinto e l'altra già può seppellire tutto quello che vuole pubblicare. La relazione con quei settori dei movimenti secondo me potrà essere un elemento di sviluppo, un elemento nuovo, un elemento di svolta, un elemento anche di sopravvivenza poi sostanzialmente, non solo per l'editoria penso, ma anche per i movimenti stessi poi. Ci speriamo tutti e tutte, e continueremo a lavorare in quella direzione, cercare di vedere un futuro sia per i movimenti LGBTQ ma anche per le librerie, l'editoria LGBTQ in Italia, che ne abbiamo decisamente bisogno. Grazie mille Mauro per essere stato con noi. Ti verremo a trovare alla libreria Antigone a Milano e a Roma, e leggeremo sempre volentieri i libri che state facendo uscire con l'Asterisco Edizioni, e grazie ancora per essere stati con noi. Grazie mille davvero.